Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Non parleremo solo di Unicredito, non parleremo solo di Profumo, ma anche perché, secondo le migliori tradizioni, come recitava il titolo di un libro, adesso è colpa di nessuno, nel senso che il titolo va male in borsa e ieri avevano cercato probabilmente le fondazioni bancarie, ma insomma... si era cercato di mantenerlo non troppo in calo, infatti aveva perso solo il 2%, oggi perde il 3,7%. E dicevo, non solo la reazione del mercato è di punire l'incertezza che si è creata in questo passaggio di consegne fatto a metà, cioè uno se n'è andato ma non è arrivato nessun altro, ma come sempre, anche qui secondo le migliori tradizioni di questo paese, nessuno ha avuto responsabilità, tant'è che c'è un silenzio in qualche modo assordante di chi fino a ieri chiedeva, insomma, che Profumo venisse a Miti Consigli. Mi riferisco ai sindaco leghista di Verona Tosi, al presidente della regione Veneto Zaia, a vari esponenti leghisti. Ha parlato invece il senatore, ha parlato Umberto Bossi, dando a nostro avviso anche un po' una lezione ad alcuni suoi colonnelli, dicendo: beh, forse le cose, adesso lo facciamo sentire, potevano essere fatte un po' meglio, qui c'è il rischio. Ma guarda un po', che i tedeschi, ossia Dieter Rampl, che ne esce come grande vincitore di questa vicenda, assieme alle fondazioni Torino, Cari Torino e Cari Verona, ma che i tedeschi, la banca diventi troppo tedesca, visto che in questo momento tutto il bastone è in mano del presidente Rampl. E quindi chi era stato conquistato da Unicredito, perché Ibo Vereinsbank viaggiava in condizioni di bilancio disastrose, comprata nel 2005 da Unicredito, adesso, un po' come accadde tra Roma e Atene, se vogliamo essere un po' aulici, ebbene adesso si sta conquistando la banca. Questo è il timore di Umberto Bossi, non di chi vi parla. E allora ci chiediamo se tutti avessero ben capito le condizioni e le conclusioni che avrebbe preso questa vicenda, ossia chiedere le dimissioni, sfiduciare, perché ieri siamo andati avanti fino a mezzanotte inoltrata, sfiduciare l'amministratore delegato senza avere un nome pronto per metterlo al posto di Alessandro Profumo. Anche qui va benissimo che uno dopo 15 anni lasci i vertici di una banca, forse la più grande banca italiana e l'ottava banca europea avrebbe dovuto gestire la cosa, dando anche la possibilità di avere una transizione normale in cui uno ringrazia, se ne va e ringrazia e prende la buona uscita, che non è poca cosa, 40 milioni sembra di euro, ma nel frattempo entra subito in carica il nuovo amministratore delegato, lasciando appunto non avendo nessun tipo di interregno. Meno 4% perde Unicredito, interessante adesso la reazione della politica, e interessante, come ricordava anche oggi, questa mattina, il nostro editoriale, il ruolo del ministro Tremonti, che fino all'ultimo ha cercato, avendo lui sì capito che il rischio che si correva in quello che Bossi ha definito un salto nel buio. Forse la domanda andrebbe girata appunto a Zaia e a Tosi in questo caso, se avevano ben presente il salto nel buio. E dicevo, il ministro Tremonti ha cercato fino all'ultimo di arrivare a un accordo, a un qualcosa che non portasse alla situazione attuale. Di questo parleremo con un ospite di eccezione nella seconda ora del programma. Prima avremo anche altri temi, perché ripeto, l'economia e la giornata va avanti oltre Unicredito. Certo che su questo avremo modo di riflettere anche nei prossimi giorni. Parleremo di consumi, lo faremo con il numero uno del gruppo Coin, Upime, OVS, Stefano Beraldo. Una grossa campagna di investimenti, pubblicitaria, di acquisizioni, conti che vanno bene, e gli chiederemo come fa a vendere nel periodo in cui i consumi, soprattutto nell'abbigliamento, sono in brusco calo. Ancora avremo altri aggiornamenti nel corso dopo i mercati finanziari, mercati che, vi dico subito, vanno male: meno 1,70 Milano è la peggiore, meno 1% Parigi, meno 0,90 Francoforte, Londra invariata, l'America meno 0,3. Insomma, qui c'è l'effetto Unicredito che pesa tantissimo. E avremo anche altri, se ce la facciamo oggi, se no poi vediamo, anche un bilancio di quello che è l'investimento infrastrutturale In Italia, Ansaldo Breda, Ferrovie dello Stato da un lato e Bombardier. Vediamo se ce la facciamo oggi perché i tempi sono molto stretti anche oggi. 349-238-6666 per i vostri SMS. Partiamo allora dalla borsa. Eh sì, perché oltre a Unicredit che ha 1,82 euro, il Banco Popolare perde il 2,70 come Prismian, il 2,60 lo perde Ansaldo STS e Autogrill, il 2,5 il Carlo di Pirelli, il 2,4 quello di ST Microelectronics, il 2,3 quello di Mediaset, il 2% lo perde Luxottica, l'1,90 lo perdono sia il Monte dei Paschi che Intesa San Paolo che Generali e Bulgari. Bene invece Mediolanum più 4,5, A2A più 2, Mediobanca più 1,20, Buzzi Unicem più 0,70, Fiat più 0,40%. Fortissimo, fortissimo l'euro, a 1,34, così come registriamo anche nuovi record in tutto il mondo delle materie prime. L'oro sta praticamente a 1.300 dollari l'oncia, 31 grammi l'oncia troy. 1.300 dollari per 31 grammi. Il petrolio invece è un po' calato dopo dei dati americani sulle scorte, risultati migliori delle attese, intorno ai 75 dollari al barile, ma c'è anche il caso della giada. Perché? La giada, come dicevo che la giada, sì, ho capito, ma c'è una domanda cinese di giada incredibile, se qualcuno ha giada, intesa non come moglie o figlia, ma come materiale in casa, stia attento perché vale 80 euro al grammo, ben più dei 30 euro al grammo che vale l'oro, se facciamo un rapporto al grammo. E poi la Coldiretti segnala che i futures, cioè i contratti per acquisti futuri del succo d'arancia, qui torniamo sempre all'immagine di una poltrona per due, dicevo il succo d'arancia ha raggiunto la quotazione record degli ultimi 3 anni, 1,597 dollari per libra con consegna a novembre. E l'euro, dicevo, ha toccato i massimi dello scorso 27 aprile, mentre la squadra economica del presidente americano Barack Obama ha perso un altro pezzo, perché dopo Lawrence Summers a lasciare sarà anche Herbert Allison, che è una figura di spicco all'interno del Dipartimento del Tesoro americano, aveva in mano tutta la supervisione del piano di salvabanche da 700 miliardi di dollari, il piano detto TARP. E invece l'Irlanda continua a preoccupare, continua a crescere il premio che si paga per assicurarsi sul rischio di fallimento dell'Irlanda, e tant'è che il credit default swaps, i CDS, sono saliti a 465 punti, e la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rende un'obbligazione irlandese ormai è di 4 punti percentuali, anche qui un record. Ancora vedo molti messaggi, adesso rispondiamo. Il Portogallo ha collocato oggi 750 milioni di obbligazioni. Il Portogallo è un altro paese a rischio, però ha dovuto pagare tanto per trovare sottoscrittori sul suo debito. Infatti il rendimento medio è stato del 4,7% contro un rendimento precedente del 3,6%, e sui decennali al 6,2% contro il 5,3% della precedente asta. È interessante il titolo che danno molti giornali, l'Economist, molti giornali nei loro siti anglosassoni sulla vicenda Profumo, del Profumo Affair, perché ricorda il vero scandalo Profumo, quello del ministro britannico travolto in uno scandalo sessuale negli anni 60, inizio anni 70 se non vado errato. Bello gioco di parole, molto critici i giornali anglosassoni su quello che è successo in Italia, si dice in sostanza l'ingerenza della politica e delle fondazioni, che poi sono emanazione anche di interessi politici, hanno prevalso sulle logiche aziendali. Attenzione, perché molti di voi dicono: ma insomma, bene ha fatto, giusto il pugno di ferro della Lega ed azionista. Allora, qui però lanciamo un tema che poi affronteremo più avanti con il nostro ospite alle 18. È giusto che la politica si occupi di banche private, di soggetti privati quotati con azionisti privati o no? Perché insomma, su questo bisogna intendersi, perché abbiamo fatto tutti gli anni 90 criticando l'ingerenza dei boiardi, della politica, della Prima Repubblica sulle banche. Ci siamo liberati dalla politica dentro le banche proprio con le privatizzazioni degli anni 90. Adesso non è perché è cambiato il nome del partito che si può cambiare idea. O mi dite e scrivete al 349-238-6666 che la politica deve decidere il destino delle banche, allora torniamo anche a nazionalizzarle, oppure si decide che tutti i soggetti privati, anche le banche, devono essere retti negli interessi degli azionisti e del loro consiglio di amministrazione, ma la politica deve stare fuori per motivi elettorali, che siano sindaci, governatori regionali o quant'altro. Certo che l'appello politico ci può sempre essere, è chiaro che quando Zaia ricorda ai nostri microfoni che si raccoglie sul territorio, deve investire sul territorio, è giusto che la politica rappresenti queste istanze, ma una cosa è chiedere, una cosa è imporre. Andiamo avanti, per quello che riguarda la vicenda Profumo, ripeto, al di là del nome, nessuno qui si preoccupa del destino di Profumo. Con 40 milioni di euro non è esattamente un problema nostro. Il tema è come deve essere mandato via l'amministratore delegato del primo gruppo bancario italiano e perché. Perché lo chiedono i politici, perché diciamo, non viene difeso al suo interno, perché le fondazioni vogliono pesare di più, cioè. E soprattutto lo si manda via senza aver pronto un sostituto? È così che si gestisce il primo gruppo bancario italiano? A nostro avviso non si gestisce così neanche, diciamo, il ristorante sotto casa. Comunque. (Applausi) 349-238-6666 per i vostri sms. Anche la domanda se la politica deve tornare a occuparsi di quello che fa una banca. E quindi ci torniamo alle banche di interesse nazionale, chi ha più di 40 anni se le ricorda, e ai banchieri nominati dalla politica e dai presidenti del consiglio vicinissimi a loro, è tutto questo. E resta però anche nel frattempo il nostro tema, ossia il nostro sondaggio, che lanciamo adesso, così lo riprendiamo, su chi volete votare come ministro dello sviluppo economico, visto che manca da quasi 140 giorni. Voto Antonio, italiani! Moltissimi voti, non vi posso dare l'elenco perché sennò abbiamo il timore di influenzare, dico solo che molti dei vostri nomi non sono politici, sono esponenti del mondo dell'economia, manager, amministratori delegati. E adesso, per quello che riguarda il tema, arriviamo anche a come si gestisce un grande gruppo, ma vedo già molti messaggi che dicono: ma insomma, lei ce l'ha con la Lega, no? Gualtosi, Zaia, Cota sono tutti ospiti nel nostro programma, le istanze di chi chiede che i soldi vengano reinvestiti sul territorio sono istanze importanti, e abbiamo sempre criticato un'idea di banca universale che Alessandro Profumo ha perseguito, che ha di fatto dimenticato un po' il territorio, direttori di filiale che non conoscevano più le imprese, insomma troppi occhi all'estero, troppo pochi occhi in Italia. Ma questa è una critica, diciamo, al manager. Qua il tema è come si cambia il numero uno della più grande banca italiana. In questo modo, arrivando fino a mezzanotte, non capendo cosa succedeva, si dimette, non si dimette, viene sfiduciato senza un sostituto, perché lo chiede la Lega o perché lo chiedono le fondazioni, o in maniera un po' più internazionale europea. 349-238-6666 per i vostri sms. A questa domanda ha risposto Umberto Bossi al nostro Vincenzo Miglietta. Bisogna prepararlo meglio prima. Ma adesso la componente tedesca è troppo forte? Ma spero che, seppur in economia bisogna sempre stare allertati, spero che non riesca a combinare niente, non riesca a portare via la banca. Io penso che alla fine riusciranno a fare una difesa adeguata, le banche territoriali faranno una difesa adeguata. Ecco, ma pensa che il nord è tutelato da questa struttura di Unicredit? Si è creata così. Diciamo che l'unica cosa preoccupante è che hanno cambiato profumo senza preparare prima le cose. Meglio non rischiare quando ci sono i soldi di mezzo. Oh, così mettiamo a tacere chi scrive lei ce l'ha con la Lega, a parte il fatto che è irrilevante con chi ce l'ho io, ma insomma queste sono le parole di Umberto Bossi. Bisognava preparare meglio la sostituzione, no ai salti nel vuoto, sono preoccupato, l'avete sentito, speriamo che le banche del territorio, cioè le fondazioni, poi reggano il colpo, perché non si può consegnare la banca ai tedeschi. Mai in Germania avremmo visto una gestione del genere, lo dico per incluso, senza che voi citiate i vari Palenzona, Biasi, tutti i presidenti delle fondazioni, i vari leghisti, insomma occorre anche gestire le cose in un certo modo. Poi nessuno toglie il fatto che un amministratore delegato se ne può andare, pagato per andarsene anche in qualche modo, perché mica è un dipendente, ma questo è del tutto irrilevante, è il metodo. Che valore ha creato Profumo? Beh, insomma, su questo ognuno può avere la sua idea, errori ne ha commessi anche lui, però la banca obiettivamente è diventata il primo gruppo bancario italiano, anzi, grazie anche e soprattutto alla sua gestione. Comunque, rispondete se avete voglia anche alla domanda: a questo punto è giusto che la politica decida le nomine bancarie, cosa fa, deve fare una banca, dove deve mettere i suoi soldi, dove deve espandersi, sì o no? Se sì, però poi non lamentiamoci della degenerazione della partitocrazia. Allora, adesso andiamo in pubblicità e meteo, poi intervistiamo Stefano Beraldo, che è in attesa per capire invece come ha fatto lui come manager a crescere utile, far crescere utile fatturato nel settore dell'abbigliamento, Coino, VS, adesso anche Upim, dove va il consumatore, così respiriamo un po' rispetto ai temi bancari. E poi a chi ha voglia consiglio l'intervista alle 18, diciamo, proprio sulla vicenda di Alessandro Profumo e sulla gestione di Unicredit. 349-238-6666, la borsa intanto ha chiuso Unicredit ha perso il 4%, ci è appena arrivata, allora la facciamo sentire, però anche la dichiarazione della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia su Profumo, ma soprattutto sul suo sostituto. Ovviamente io non sono un azionista di Unicredit, quindi posso fare solo una valutazione sulla persona. Conosco Alessandro Profumo da tempo, credo che abbia fatto in questi 15 anni un lavoro importante, ha unificato varie banche, ha creato la seconda banca italiana più importante, la quinta banca europea, una grande banca italiana internazionale. Quindi mi dispiace, come dire, che lui lasci questo incarico. Ovviamente a lui va il mio saluto, il mio ringraziamento per quello che ha fatto in questi anni. Adesso è assolutamente fondamentale che si scelga una persona a guidare questa grande banca così importante per le imprese italiane e anche per il paese, una persona che sia all'altezza, una persona di standing internazionale, che sappia come portare avanti una banca, che deve essere focalizzata sui territori, ma anche che mantenga questa vocazione internazionale, perché ne abbiamo detto qui oggi, ma per tutte le imprese italiane il tema di andare a conquistare i mercati esteri è fondamentale, quindi abbiamo bisogno di una banca che ci accompagni in questa internazionalizzazione che noi dobbiamo fare. Credo che sia importante che si faccia una scelta di qualità nel più breve tempo possibile. E in queste parole della Presidente Confindustria c'è un altro grande tema, la internazionalizzazione delle nostre imprese. Per anni abbiamo detto, abbiamo raccontato che le nostre piccole imprese, soprattutto, che non ce la fanno andare da sole all'estero, non hanno gli strumenti, non hanno i mezzi, non hanno la forza, le dimensioni, hanno bisogno di banche internazionali che le accompagnino, che facciano consulenza, che abbiano gli uffici in Cina piuttosto che in Russia. Allora, anche qui la domanda è: la banca deve essere una banca locale come molte piccole banche locali, o può anche essere una grande banca con respiro internazionale? Perché anche qui decidiamoci: se la banca deve aiutarti sul territorio, allora non sta a Shanghai; se deve stare anche a Shanghai, forse starà un po' meno sul territorio. Però poi lo stesso imprenditore non può chiedere la banca sul territorio e la banca a Shanghai. Dunque, poi c'è chi suggerisce il sindaco di Verona come nuovo amministratore delegato di Unicredito. Se questa deve essere la soluzione, andiamo verso la trasparenza. Al di là della battuta, il meteo, la pubblicità, poi la borsa e altre reazioni alle dimissioni, alla sfiducia del consiglio di amministrazione data a Alessandro Profumo. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Bisogna prepararlo meglio prima. Ma adesso la componente tedesca è troppo forte? Ma spero che, seppur in economia, devo sempre stare allertati. Spero che non riesca a combinare niente, non riesca a portare via la banca. Io penso che alla fine riusciranno a fare una difesa adeguata. Le banche territoriali faranno una difesa adeguata. Ecco, ma pensa che il nord è tutelato da questa struttura di Unicredit? Si è creata così. Diciamo che l'unica cosa preoccupante è che hanno cambiato Profumo senza preparare prima le cose. Meglio non rischiare quando ci sono i soldi di mezzo. E lo rimanderemo in onda tutta la puntata, perché questi sono i temi. Si può gestire la più grande banca? Mi riferisco al bilancio 2009, che è di 1.475 milioni contro i 900 di Intesa San Paolo. Ma dico, si può gestire la più grande banca in questo modo, arrivando fino a mezzanotte, non capendo se si era dimesso, se lo dimettevano, se lo sfiduciavano, e senza un sostituto, con un vuoto gestionale? E poi, visto che insomma lo stesso Bossi ricorda i suoi colonnelli, attenzione, come scrive un ascoltatore, come licenziare il pizzaiolo senza averne un altro pronto. La pizzeria un po' di difficoltà ce l'ha, e dice attenzione, perché adesso in questo momento comandano anche di più i tedeschi e il presidente Rampi. Poi le fondazioni facciano quello che vogliono. E l'altra domanda che abbiamo per voi è: la politica deve entrare nella gestione diretta o deve fare, insomma, avere un ruolo esterno di invito, moral suasion, ma senza intervenire nell'operatività, nella gestione di un soggetto privato come una banca, per di più la più grande banca del paese? E la banca deve essere internazionale per portare le imprese all'estero o deve essere locale per gestire il territorio? Però poi lasciamo stare i paesi del Far East per i piccoli imprenditori. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso la borsa. Male Milano oggi, meno 1,81%, perde l'1 invece Francoforte, l'1,30 Parigi, lo 0,3 Londra, l'America perde in questo momento lo 0,3. La notizia più forte riguarda l'euro, è arrivato a quota 1,34,4 sul dollaro, quindi nuovi record aprile. Oro anch'esso nuovo record. Il peggior titolo oggi Unicredito, quindi nonostante ieri da quello che ci risulta si sia cercato con varie operazioni e acquisti di tenere sul titolo, perché insomma già la gestione è stata una delle migliori di questo passaggio. Se anche il titolo fosse crollato, veramente era un accapporetto per chi ha fatto questa operazione. Oggi evidentemente non ce l'hanno fatta, perché il titolo ieri ha perso il 2%, oggi ha perso il 4%, nonostante qualcuno abbia anche cercato di tenerlo su per non appunto arrivare a una debacle totale su come questa vicenda è stata gestita. Chiedo a Livia Zancaner, dell'agenzia di stampa Radio Coro, Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Che cosa ha bocciato la borsa? Cioè l'assenza, una gestione di, come ha detto Bossi, di salto al buio, cioè che non c'è un nuovo amministratore delegato, il fatto che si sia arrivati fino all'ultimo con gli stracci, con Alessandro Profumo nella sede del suo avvocato erede, con la moglie, a ascoltare in conference call il consiglio di amministrazione, le impronte digitali fino alle 11:30 di sera, non si capiva niente, una cosa veramente da pizza e fichi, me lo dico rivolto al CDA di Unicredito o che? No, allora sostanzialmente ciò che ha pesato sul mercato è, cioè, si riflette nelle parole di Bossi, nel senso che Bossi, quindi. Sì, il titolo ha pagato l'incertezza più che altro sul futuro, quindi sulla guida, sulla futura guida dell'istituto. In realtà poi non è stato solo questo, nel senso che ha pagato appunto le incertezze complessive sul futuro. Infatti alcuni esperti hanno infatti sottolineato che la preoccupazione del mercato riguarda anche i progetti in corso, sui quali però non ci dovrebbero essere particolari novità o comunque dubbi, e le eventuali svalutazioni che non sono attese, perché solitamente quando avviene un cambio al vertice la nuova guida, quindi magari il nuovo amministratore delegato, può decidere di ricorrere a maggiori svalutazioni. Inoltre c'è anche, sottolineavano oggi sul mercato, il fatto che le preoccupazioni guardano anche il fatto che la nomina potrebbe risultare frutto di compromessi, di un board diviso e di esigenze politiche che poco hanno a che fare. Adesso ci sono i libici con il 7%, i tedeschi hanno presente Ramp, le fondazioni Cari Torino con Parenzona, la fondazione Cari Verona con Biasi, i vari sindaci, auguri. Scrive un ascoltatore: non è che possiamo fare la trasmissione tutti i giorni su Profumo, e infatti non la facciamo mai su Profumo, tranne quando dopo 15 anni si dimette. Abbia pazienza anche lei. E Ofelè, Prismi a meno 2,80%, Autogrill meno 2,70%, Banco Popolare meno 2,5%, Ansaldo pure meno 2,5%, come stima Microelectronics e Pirelli, anche Mediaset perde il 2,5%, Monte dei Paschi meno 2,1% come Luxottica, Bulgari meno 2% come Intesa San Paolo, Telecom meno 1,80% come le Generali e le CIR. Chi ha guadagnato? Mediolanum più 4,70%, A2A più 1,90%, Mediobanca più 1,1%, Buzzi Unicem più 0,60%, Mediolanum. Sì, allora Mediolanum ha beneficiato in particolare delle ipotesi sul via ad una sorta di risico bancario dopo appunto le dimissioni di Profumo, una mossa che secondo indiscrezioni stampa, secondo comunque anche voci di mercato, potrebbe aprire la strada a una fusione tra Generali e Mediobanca, un'operazione che potrebbe coinvolgere anche Mediolanum. La Repubblica infatti oggi sostiene che l'attacco a Profumo è partito anche perché qualunque operazione su Mediobanca non si può fare se non si controlla il capo azienda di Unicredit. Unicredit è infatti certo, l'8,6% di Mediobanca, e in quest'ottica appunto l'operazione può coinvolgere Mediolanum, spiega il quotidiano, di cui il premier vuole disfarsi e che lo stesso Geronzi, che è il numero uno di Generali, sarebbe pronto ad accollarsi. Sì, c'è anche tutta la partita Mediobanca Generali dietro, perché sappiamo che Profumo era nettamente contrario, e quindi poi questo va a premiare Mediolanum, ci mancherebbe. Generali invece poco mossa oggi. Vorrei ancora commentare poca roba, perché c'è migliori e peggiori. Abbiamo PMS più 11,90, Sopaf più 10,30, Risci Aginoli più 5,80, Uniland meno 4,90 sul fronte opposto, Classe Editori meno 4,60 sempre sul fronte opposto. La debolezza del dollaro ha penalizzato chiaramente Luxottica e Autogrill. A2A in una battuta. Sì, allora A2A ha chiuso oggi in territorio positivo, si è riunito il board per analizzare il dossier realizzato da Intesa San Paolo sul futuro del gruppo. I temi da analizzare all'ordine del giorno erano allora il resetto di Edison, di cui A2A è azionista, e sostanzialmente il debito, che attualmente si attesta intorno a 4 miliardi di euro. Inoltre il titolo è stato premiato anche dal fatto che alcuni esperti hanno sottolineato che da inizio anno ha sottoperformato l'indice, nel senso che A2A da inizio anno ha perso più o meno il 21,7% 22%, mentre l'indice, cioè il FTSE MIB, ha ceduto l'11,6%. Grazie a Livia Zancanè, Radio Corriere Sole 24 Ore, il traffico. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Sospendiamo per un po' anche l'approfondimento su Unicredito. Torneremo, non vi perdete la seconda parte del programma, a parlarne con chi conosce bene il gruppo e Alessandro Profumo. Dicevo, parliamo adesso di consumi. Consumi rallentano, la difficoltà dei grandi gruppi. C'è un gruppo in Italia, è per questo che affrontiamo volentieri il tema, che invece ha visto aumentare fatturato, ricavi, ordinativi, ha fatto acquisizioni. Il gruppo è il gruppo Coin, OVS Industry, adesso anche UPIM. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato Stefano Beraldo. Buonasera. Buonasera. Allora, su questo andamento dei consumi molto stiamo dibattendo. Voi però avete, e ve ne diamo atto, dei dati, insomma, eccellenti. Avete un fatturato di 1,2 miliardi, l'utile del 2009 è stato di 44 milioni, non era facile fare utile nel 2009, e con una capitalizzazione, visto che siete quotati come Coin, che sfiora il miliardo di euro. 10.000 dipendenti, 500 negozi in Italia, 92 all'estero. E proprio due settimane fa avete rilanciato, anche con una campagna pubblicitaria molto forte, sia il marchio VS Industry, che già andava bene, ma soprattutto il neoacquisto UPIM con i negozi UPIM Pop. Al di là delle vostre strategie commerciali, quali sono le dinamiche nei consumi che lei registra? Perché anche la scelta di UPIM Pop è una scelta che si potrebbe chiamare di no target in qualche modo. Prego. Beh, intanto abbiamo un po' più di 500 negozi, 500 sono quelli OVS, poi ne abbiamo qualche centinaio tra UPIM, Coin, eccetera. Ma i consumi sono ancora abbastanza stazionari. La realtà è che da molti mesi ormai mi sembra che vengano premiati i gruppi che fanno innovazione e puniti quelli che non ne fanno. Segno che il cliente non è più pronto a comprare un tanto al chilo sulla base di un bisogno quasi di tipo alimentare, ma compra su un misto tra emozione e razionalità. Quindi i consumi li vediamo abbastanza piatti, probabilmente il mercato segna complessivamente un leggerissimo segno meno. Purtroppo l'Italia, a differenza di altri paesi europei, non offre un osservatorio tempestivo dell'andamento dei consumi. In grande crisi un certo tipo di consumi alimentari, piccola ripresa del lusso, mi sembra di capire, qualche segno di cedimento ancora del medio basso. Noi in questo contesto stiamo facendo comunque dei numeri largamente positivi sia con OVS che con Coin, ma soprattutto, e questo ci stupisce anche per certi versi, con la stessa UPIM. Segno che c'è sempre la possibilità di dire qualcosa di nuovo e di essere capiti e apprezzati dal cliente. Allora io vorrei capire banalmente come, visto che voi concorrete con marchi, così facciamo i nomi anche dei marchi, con catene, colossi, H&M, Zara, gli stessi Benetton, nel senso che l'Italia è un paese che anche ha lanciato la moda, diciamo, casual e a basso costo. Come si fa in un mercato in cui chiaramente il consumatore vuole buona qualità o comunque design e prezzi bassi a concorrere con colossi come quelli che ho citato io? Cioè, dov'è il trucco, tra virgolette? Lavorare molto con i fornitori? Il trucco non c'è mai un trucco, perché alla fine non c'è un trucco, non c'è inganno e ti scoprono subito. Quindi noi abbiamo a che fare con 150 milioni di pezzi venduti, con un centinaio di milioni di clienti che entrano nei nostri negozi, adesso con UPIM anche di più. Quindi questa gente che torna vuol dire che ha già lavato un prodotto, vuol dire che l'ha messo al bambino, che ha capito che il prodotto è fatto bene. C'è un insieme di fattori, c'è sicuramente prima di tutto una rivoluzione del negozio. Chi fa retail vende un prodotto, ma vende un concetto. Il concetto è veicolato da un contenitore e il contenitore è il luogo in cui le emozioni e il portafoglio si sposano e determinano un sì rispetto a un atto d'acquisto. Dove c'è solo il portafoglio, quindi rapporto prezzo-qualità, e manca l'emozione, il combattimento è all'arma bianca, perché a questo punto si combatte con una pluralità solo sul prezzo, certo, di giocatori solo sul prezzo. Credo che questo dei negozi, unito a un lavoro impressionante dietro le quinte, abbia portato a un cambio di velocità, evidentemente, quindi, che ci sta dando molti risultati. Quindi, se ho ben capito, lei dice: se noi dovessimo competere solo sul prezzo, sarebbe veramente una lotta disperata, perché vai a scontrati anche con giganti che hanno altre dimensioni. Quando tu competi sì con il prezzo e il rapporto prezzo-qualità, ma anche con il luogo, il posto in cui vai a comprare, e quindi voi avete investito, lo dico perché tanto non c'è problema, moltissimo anche nel creare librerie interne, penso UPIM, con la ristorazione, cioè tutta un'esperienza che è un po' diversa dal semplice ingresso in un negozio, cercare la gonna o il pantalone a un prezzo basso e poi esserne contenti. Ecco, se c'è un'esperienza su questo, chiaramente cambia anche la vostra capacità di competere. Mi faccia capire una cosa: cosa vuol dire avere una catena no target, o meglio, per riformularla, quando il compianto Giampaolo Fabris diceva la crisi economica porterà a una neosobrietà, come si coniuga, visto che voi questo fate di lavoro, la neosobrietà con il fatto che uno voglia comprare la gonna a poco prezzo ma di buona qualità e poi anche l'iPad? Allora, diciamo che prima di tutto la decisione di fare questa Whooping Pop nasce da una lettura di un cambiamento, secondo me, epocale nei modelli di consumo. Siamo diventati un paese saturo di centri commerciali periferici e siamo un paese che ha bisogno di riscoprire il valore del centro città. E quindi trovandomi con una quarantina di location bellissime di centro città da riempire, ci siamo immaginati che non c'era nulla di meglio che reinventare il centro commerciale, cioè reinventare l'acqua calda, far sì che queste location di centro città ritornassero ad essere un luogo di aggregazione, quindi un luogo prima di tutto. Leggendo poi i comportamenti del cliente di oggi, leggiamo che il cliente popolare, il cliente di ogni giorno, cerca nell'esperienza d'acquisto di risolvere dei bisogni vari e anche di trarre del piacere da quello che fa. Allora, unendo la lettura del fatto che i centri commerciali periferici diventano spesso un'opzione inevitabile per chi in centro città non trova più qualcosa di indispensabile, che può essere un cacciavite o una scarpa sportiva o un attrezzo per la pulizia della casa, abbiamo pensato di ampliare il target in questo punto merceologico e offrire a dei player che sono i più diciamo cliccati, più venduti nel mercato italiano, l'opzione di entrare con noi a popolare questa esperienza più trasversale di centro commerciale di città. Quindi abbiamo scelto di vendere i più cliccati, quindi i prodotti più venduti nelle mall italiane, chiedendo ai player come Euronics, come Feltrinelli nei libri, o Mondadori, o Arion, oppure ai player come Segue, Carpisa nell'accessorio valigeria, e a moltissimi altri, a player nel food come Formato Mo, dei Fratelli La Bufala, di creare in qualche caso dei formati ad hoc, di piccole dimensioni, per riproporre in centro città una multiesperienza gratificante di grande qualità. Certo. Abbiamo chiesto ai migliori di aiutarci. In questo senso è no target, perché a questo punto il vero target diventa la connessione con quello che la gente cerca veramente. Quindi questo è un posto per gente connessa, un posto per gente che ha bisogno dell'ultimo palmare. Allora, lo stesso negozio, trovi l'iPhone e trovi la calzatura e trovi l'abito da bambino fatto da noi. Cosa c'è in comune? C'è che sono i prodotti che la gente vuole, e quindi se l'iPhone costa 600 euro, pazienza, lo si vende a 600 euro. Quindi qual è il target? Non è il censo, non è il sesso, non è il gender, non è l'età. Il target è la volontà di comprare un prodotto che funziona e che è riferito al best, al più cliccato della sua categoria. Chiarissimo, è importante anche capire come cambia il mondo del consumo con una crisi che riduce i consumi ma soprattutto cambia le scelte di consumo. Grazie al numero uno del gruppo Coin, Stefano Beraldo. Grazie a voi. E adesso il GR, poi un ospite importante per commentare l'addio di Alessandro Profumo. Dopo il GR 349-238-6666 per gli sms. Focus Economia. :18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per chi si fosse appena messo in collegamento, in una giornata in cui è salito un nuovo record l'oro, ma non solo, anche l'euro ha toccato un nuovo record da aprile a 1,34 sul dollaro, e in cui aumentano i timori sull'Irlanda, continuano infatti a crescere a livelli record il premio che si deve pagare per assicurarsi sul rischio di fallimento, di crack dello Stato irlandesi, i cosiddetti CDS, credit default swaps, ormai hanno toccato un livello altissimo sopra i 465 punti, e anche la differenza tra quanto rende un'obbligazione irlandese e un'obbligazione tedesca è ai massimi, cioè 4 punti percentuali di differenza. Anche il Portogallo, per riuscire a finanziare il suo debito, ha dovuto offrire rendimenti molto molto alti, il 4,7% sui titoli a 4 anni e il 6,2% sui titoli a 10 anni. Questo è il fronte internazionale. Le borse come hanno chiuso? -1,80 Milano, con pesante, come già sapete, Unicredito, -4%, molto bene Mediolanum, +4,7%, e qui c'è il ragionamento fatto da alcuni il ruolo di Geronzi, del Presidente del Consiglio, e la possibilità di arrivare a una fusione Mediobanca generale. Il mercato, insomma, ragiona sul dopo Profumo anche per quello che riguarda Mediolanum. Parleremo e continuiamo anche a parlare di questo. Ripeto, i due temi che abbiamo lanciato sono: è corretto che la politica entri nella gestione di una banca, non che esprima il suo ruolo con quella che si chiama moral suasion, con una pressione da fuori, ma che entri a decidere se è giusto che quali siano i soci della banca. E dall'altro, l'altro elemento è: si può mandare via un amministratore delegato, che certo che si può mandare via in questo modo? Cioè, la più grande banca italiana, l'ottava banca europea, può trovarsi, come ha detto Umberto Bossi, e adesso lo facciamo risentire, con un salto nel buio, cioè senza aver preparato la successione? Che gestione è? Unito al fatto se la banca debba essere internazionale per portare imprese all'estero, debba essere solo locale. Questo è un ulteriore dubbio che abbiamo. E allora torniamo a parlare anche del giorno dopo, quello che tutti chiamano il ribaltone in Unicredito. Devo dire che in effetti la conclusione è stata tutto tranne che lineare, così come ci sarebbe aspettato da un grande gruppo come quello Unicredit. Sono arrivati numerosi attestati nel frattempo. Ha detto: mi dispiace moltissimo per Alessandro, così Corrado Passera, numero uno di Intesa San Paolo. Mi dispiace molto umanamente per Alessandro e per il nostro settore che perde un grandissimo professionista. Luigi Abete, numero uno in Italia di BNL Benpe Paribas, ha detto: Profumo ha fatto una grande opera il cui risultato rimane indipendentemente dall'evoluzione professionale avvenuta. Più freddo invece Massimo Ponzellini, presidente della Banca Popolare di Milano, dato da molti vicino alla Lega, ha detto: nel sistema bancario italiano non cambia niente dopo l'uscita di Profumo. Il giudizio invece del presidente dell'ABI, Musseri, anche numero uno del gruppo Monte dei Paschi, ha detto: non è compito dell'ABI entrare nelle scelte gestionali di una società, ma al di là del dispiacere per un amico è giusto sottolineare che le banche italiane perdono con l'uscita di Alessandro Profumo un validissimo rappresentante, e noi come ABI perdiamo un componente del comitato che ha assicurato per molti anni un grandissimo contributo all'associazione. Ha parlato oggi anche il vice amministratore delegato di Unicredito, Roberto Nicastro, da alcuni visto come il candidato forte della parte interna, dall'interno di Unicredito. Ascoltiamolo sulla strategia futura di Unicredit. Ha creato, e questa è una cosa importante, un gruppo che io credo è destinato a durare con successo per molti anni, perché Alessandro ha creato un qualcosa che dura nel tempo, e questo, diciamo, ne dà il senso della grandezza. Il progetto Banca Unica prosegue con la massima velocità, accelerazione, è un progetto altamente strategico per il gruppo. E poi le altre dichiarazioni per quello che riguarda la Presidente di Confindustria, l'avete già sentita, Emma Cegaglia ha detto: occorre adesso una scelta di livello, mi dispiace che lasci l'incarico, una scelta che consente alla banca di essere sì presente sul territorio, ma anche di avere una dimensione internazionale. Allora, molti dicono: ma insomma, non è mica morto. No, qui ripeto, a noi del destino di Alessandro Profumo interessa relativamente poco, ci interessa capire come in questo paese si gestisce la più grande banca del paese. E su questo il commento ve lo riproponiamo di Umberto Bossi al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Dobbiamo prepararlo meglio prima. Ma adesso la componente tedesca è troppo forte? Ma spero che, seppur in economia bisogna sempre stare allertati, spero che non riesca a combinare niente, non riesca a portare via la banca. Io penso che alla fine riusciranno a fare una difesa adeguata, le banche territoriali faranno una difesa adeguata. Ecco, ma pensa che il nord è tutelato da questa struttura di Unicredit? Si è creata così. Diciamo che l'unica cosa preoccupante è che hanno cambiato Profumo senza preparare prima le cose. Meglio non rischiare quando ci sono i soldi di mezzo. Così Umberto Bossi, preoccupato, salto nel buio, attenzione ai tedeschi, il presidente Rampl, e bisognava preparare le cose meglio. Dopo il traffico ne parliamo con Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, economista. E molti hanno ricordato in questi giorni che Alessandro Profumo votò alle primarie del PD. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte del Focus Economia. Chiarisco a chi scrive al 349-238-6666 che a noi del futuro di Profumo interessa, lo ripeto, relativamente poco. Con 40 milioni di euro di buona uscita non avrà grossi problemi. Ci interessa la vicenda e la sua gestione. E un commento a questo, oltre che allo scenario economico, lo chiediamo al ex presidente del Consiglio, nonché economista, Romano Prodi. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, intanto se vuole consegnarci anche un ricordo dei suoi rapporti, molto c'è scritto con Alessandro Profumo, che partecipò anche alle primarie, però poi a noi interessa soprattutto il ragionamento sulla banca alla luce di quello che ha detto, come ricordavamo oggi, Umberto Bossi, sorprendendo anche a nostro avviso alcuni colonnelli della Lega. Partiamo dal suo ricordo di Alessandro Profumo. È, voglio dire, un dramma che se ne vada dopo 15 anni in un ministero delegato, o è nella storia delle cose che si chiuda anche un ciclo? È sempre stato un manager di classe. Io non entro perché non ne so nulla delle ultime vicende. Io però, come economista, devo ricostruire la storia della costruzione di una grande banca italiana, però con una valenza multinazionale. È una roba che ci mancava, adesso ce l'abbiamo. La banca fattura credo un po' di meno di metà in Italia e 55% credo all'estero. Ha una strategia ben precisa, cioè non tocca la Francia, non tocca la Gran Bretagna, tocca Germania, Austria e l'Est Europa. Dove è potenzialmente forte, e lei sa benissimo che nel mercato di oggi o si ha una quota di mercato rilevante o diventa difficile vivere, a meno che uno non sia una banca locale piccolissima. Quindi abbiamo una banca strategica, come ce l'ha la Spagna, come ce l'ha la Francia, come ce l'ha la Germania. Secondo me va custodita. E il discorso delle fondazioni, ma le fondazioni non sono mica nate per comandare nelle banche. Certamente, avendo le azioni, devono esercitare il loro potere, ma il loro compito è quello di distribuire gli utili del loro patrimonio a favore della città e della comunità in cui vivono. Quindi le banche, come obiettivo di lungo periodo, anche nell'Unicredito, devono diminuire la loro presenza, devono diversificare il loro portafoglio, perché questa è la funzione di ogni fondazione di qualsiasi parte del mondo. E quindi l'idea provinciale di dire io voglio possedere una banca, questo ci porta a vecchi errori, ecco. Presidente Prodi, come giudica le dichiarazioni questa mattina di Umberto Bossi? Perché insomma non è un mistero che ha detto che è stato un salto nel buio e bisogna stare attenti adesso a non consegnare la banca ai tedeschi, le fondazioni devono muoversi. La cosa è sembrata... Ma la banca ai tedeschi, io quando vedo l'azionariato, io dico che è un azionariato distribuito come deve essere un azionariato di una grande banca. Non vedo italiani contro tedeschi quando analizzo i dati. Ecco, ma lei che ha seguito invece nei giorni scorsi questa vicenda, non ritiene un po' singolare che prima sono stati proprio alcuni grossi esponenti leghisti, il sindaco di Verona Flavio Tosi in quanto nomine consiglieri dentro la fondazione Cari Verona, il presidente della regione Veneto Luca Zaia, anche lì la Cassamarca ha dei consiglieri, a criticare pesantemente l'ingresso dei libici, la gestione di questo ingresso dei libici, e adesso vedere che il loro leader Bossi dice attenzione, è stato fatto un salto nel buio, adesso rischiamo che con Rampl presidente tutta la gestione della banca sia tedesca. Non è un po' strano, un po' schizofrenico? È quello che le dicevo prima, contraddice a quello che deve essere l'obiettivo di una fondazione, che non è quello di comandare una banca, ma è quello di assicurare il rendimento del proprio patrimonio a favore della città a cui si deve rispondere e di diversificare gli investimenti in modo che non sia troppo rischioso. Allora, se noi invece diciamo, torniamo al discorso Verona, Padova, vogliamo comandare, nominare i consiglieri, siamo nella vecchia tragedia italiana. È singolare che l'errore venga fatto proprio da coloro che inveivano contro la prepotenza della politica nelle istituzioni economiche. Credo che forse la lezione di qualche anno fa non è stata appresa bene nemmeno da chi oggi è al comando. E come giudica? Quindi mi sembra di capire che lei dice la politica deve stare fuori dal... Non c'è dubbio. Ma poi in questo caso soprattutto dico le fondazioni hanno proprio come natura quello di garantire e diversificare il proprio impiego delle proprie risorse. Presidente Prodi, però c'è chi obietta, lo vedo anche al 349-238-6666, dice, beh, finché però Profumo andava a votare le primarie del PD, allora andava bene, adesso che c'è il tentativo della Lega di legare la banca più al territorio, non va bene. È un'obiezione che... Uno, va a votare. Uno ha il diritto assoluto, la libertà di andare a votare, ma nessuno del PD ha mai dettato a Profumo niente, eh? Io non gli ho mai neanche chiesto che cosa faceva, intendiamoci. Non ha mai sentito nominare lei che abbia messo un qualsiasi consigliere di Bologna, di Milano, di dove voglia. Stiamo molto attenti a distinguere. Poi Profumo è un cittadino e se va a votare alle primarie del PD, va a votare alle primarie del PD. Non c'entra nulla con il suo ruolo bancario. E quindi su questo dice due cose completamente diverse. Un'ultima domanda. Lei, insomma, da economista, e in questo caso oltre che da ex Presidente del Consiglio, ha visto, l'abbiamo ricostruito anche noi oggi nei nostri GR, quello che è stato il ruolo del Ministro Tremonti, che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha cercato di trovare una mediazione. E anche la Banca d'Italia insomma, è sembrata essere abbastanza così attenta a che non si creasse un vuoto. Ecco, alla fine di tutto, da economista, se me lo vuole dire da economista, ritiene che la più grande banca italiana, l'ottava banca in Europa, avrebbe dovuto gestire in maniera diversa quello che può essere comunque un passaggio fisiologico, come il cambio di vertice? Questo, ripeto, sono ancora all'estero, sono stato sempre all'estero e non glielo posso dire. Quello che le posso dire è che se c'è una banca multinazionale, anche il capitale, se anche il capitale è di diversi paesi e se anche ci sono dei fondi sovrani, questo non porta nessun problema. In tutte le grandi banche mondiali vi è la presenza di fondi sovrani. Ecco, poi quindi troppo rumore per nulla, troppo rumore per nulla sui libici, se ho ben capito. Secondo me, a meno che non ci fossero patti speciali, è stato troppo rumore per nulla, insomma, no. Quindi. E poi chi investe in Italia in questo periodo, non è che gli si debba sbattere la porta in faccia. Non c'è poi tanta corsa a investire in Italia. Questa è la nostra tragedia. E se qualcuno ci investe, sia benvenuto. Tanto è difficile che possa venire a comandare in modo esclusivo. Avrà il suo voto in consiglio di amministrazione come ogni altro detentore di capitale. E quindi i libici sono stati un pretesto a questo punto, se tanto da un punto di vista operativo non ne avrebbero cambiato gli assetti decisionali del gruppo Unicredit? Ma può darsi anche che ci siano stati modi non efficaci o non appropriati di comunicazione, quindi può darsi che sia stato un pretesto, può darsi che abbia causato invece malintesi o che abbia causato malumori, ma quello che io voglio dire, per favore, abbiamo finalmente una banca che ha una strategia precisa in una parte del mondo preciso, Italia, mondo germanico, Austria, Germania, Est Europa, con quindi la possibilità di penetrazione del mercato, di avere quote elevate e quindi di avere una profittabilità di lungo periodo. Per favore, non roviniamola con le solite liti italiane. Grazie, grazie all'ex Presidente del Consiglio, l'economista Romano Prodi. Grazie a lei. Allora, ci avviamo verso la conclusione. Domani avremo anche altri temi. Oggi chiaramente era quasi monotematica e monografica la puntata. Giuseppe Cruciani, tu da liberista convinto sei perché la politica resti fuori dalle banche? Non me ne occupo. Di politica o di banche? Di banche, naturalmente, anche se poi so che sono fondamentali anche e soprattutto per la politica. Questo è il punto. Ci occuperemo invece di un tema molto più basso, se volete, perché il presidente della regione toscana, e dico il presidente della regione toscana, si chiama Rossi, ha definito Berlusconi un puttaniere. L'ho fatto a una radio locale e ci occuperemo del linguaggio nella politica, ma anche naturalmente della vicenda di Monte Carlo, che oggi ha aperto un nuovo capitolo con questo documento arrivato dai Caraibi. Forse vero, forse falso. E allora, tra poco la zanzara. Da Sebastiano Barigioni veramente tutto, vi lascio la nostra programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.